consumo la stufa, soprattutto la stufa consumata. Ne abbiamo una, allora, vabbè, se non ne metto, che fa? 400, 800 o 1200? Sì, sentite cosa che consumo, lo sto lavando un bel, ma un bel caro Luca. Io faccio la pacca la notte, faccio scaldare l'acqua per la mattina, e dura tutto il giorno, e poi lo stacco la mattina, che se no io... Sì, qua, sì, il consumo me lo sto lavando un bel. È un bel, non so, vabbè, d'estate no, di molto di meno, molto di meno, ma dipende, se c'è caldo che lo vado a fare dalla doccia, se no tiepida. Non si fa scendere l'acqua calda nel rubinetto, si fa più un gol, senza trattare lo scaldabagno. Certo, ma secondo me sì, magari c'è un po' di caldo, però con che è sempre fatta la tiepida, che si trova il verde, a voi esci, ti cambia tutto su di nuovo, e mi cadrà sempre a... sotto la doccia addorra. Sì, è vero. Io ho provato a scendere dalla vasca e suonare di nuovo. È inutile che ti rubano, ma devo avere il coraggio di farti la pagherata, che è bello. Ma io ce l'ho, ma aspetta come la facevo. È stato di brutto. Ho trovato al mare, cazzo di caldo, c'è un incendio lì a Badelonga, ma un caldo, al mare non si poteva stare neanche in acqua, c'era un caldo micidiale già. Abbiamo fatto pure lì salendo, ancora più caldo, facciamo passiamo la Badelonga per i posti di blocco. E c'era un incendio gigantesco, un caldo, andiamo a Sassari, ancora più caldo, non si può dire, se non ti vedi di noghi, acqua fredda, vai. Sai che non fa, sempre tipi da vuole. Io mi ricordo quando facevano l'incendio, dal caldo che c'era, ci facevano le nostre immigrazioni. Sì, rifrescati allora. Vabbè. Scappa, avanti frate, diciamo qualcosa, scusa il ping pong. Ma è un furio che sto facendo la commissione. Che ha visto, tutto qua. E adesso bene mi ascolti. Di più. Va bene. A voglia. Colazione ultima, buona, pulita, tranquilla, recovaro, come? Super, super. Segnale 9 più 30, fondo scala praticamente. La radio è super. Questo è il microfono normale, sa? Corta! Il microfono normale. Sono 2 metri più 5. Ci capite già a me in mano sul microfono, devo fare la modifica, ui. Ho scoperto la modifica, ci ho scoperto, ma non l'ho letto, però non lo dica nessuno. E poi devo sapere quanti esci. E la devi fatta la modifica del tuo microfono. Bisogna cambiare due cose. Via, Luca! Lappa, lappa! Prima cosa la capsula, prima cosa. Se avete la capsula del telefono lì, ui, spacchi tutto. Quello rimane a lui, sta sempre andando, buon buono sul microfono. Ma no, sai il telefono. Io ce l'ho una. No, due ne ho. Vabbè, esce meglio. Esce meglio. Ma tranquillo che esce meglio. Non lo so, non l'ho mai provata e non voglio dire cazzata. Allora, io ho fatto due prove nell'F16, ho messo prima sono originale. Ed era una cagata, la vita, era un po' malatosa come radio, un po' cupa di manevra. Da quando gli ho messo la capsula del telefono, ma al minimo vedi il percussore a 2, a 3, poi a 4. E esce un bombo, sta sempre andando col microfono. E lo può vedere. Boh, raga, io mi sono andato là, se non stavo andando a lavorare. Ci sentiamo, alla prossima. Ciao, Gianni, buon trabacco. Quello lì non si dobbiamo mettere. ancora non si è pulito qualcosa. Saluto e ricambio. Ehi, cura. picchi di... non è che uno e due a salvo, c'è vero? Più forte come il radio, il radio meglio, capito? con la prima. Affancuffia. Scusami, con la prima, fra. Hola. Dai, stai, eh. Hola. Hola. A me mi male i brividi. No, sono attenti i muti, sono erogato. No, è qua, è rubato. Ok. Tu no. Non mi garba. Ma no, che mi busco un microfono di tavola, allora io lo usiamo, se no lo usi no. Non vuoi il microfono? Se vuoi prima andare a pigliare in mano, mi sa che ribarria. Ma cosa? Non segue. Ehi, sta funzionando bene, è spento, eh. Chi è meglio la colorazione? Mi dire chi è meglio questa, non guardare il segnale però, eh. questa, 1, 2, 3. Ho questa, 1, 2, 3. A prima, a me piace a prima. Ho fatto di la seconda. Vabbè, le distanze sono differenti, però allora a me piace più questa. K, già va bene allora. Questo è fra, l'ha preso questo tipo, questa camionista, su eBay, uno Zodiac M5040, è fiammante, no, 35 euro l'ha pagato. La faccia, volume, poi c'è filtro, MFM, squelchi, RFG, volo basso. Ma vede? No, no, smister. Fiammante, avevo di fiammante, non vai a fare che ne ha cattura. Ci fanno bene quegli apparati, ma non bene, io dico sono gli apparati cibi buoni. Però c'è una cosa, fra, quando tocco il cavo fa chissà perché faccio contatto. No, allora, ho fatto la connessione ieri, ho cambiato il cavo, spinotto, vedete quello che c'era prima, era tutto ossidato. Io non riuscivo a saldare i fili dello spinotto, l'ho cambiato. Questo è il problema là dentro. Perché me la faccia anche lì l'Intec, il 340, quello che avevo prima. Non so, l'ha aperto gli hanno fatto una massa. Non lo so, mi sembra strano. Mi prendi bra. Prendere, ma me lo devo preparare e quindi non ho giugato. Ma ho bevuto, pensavo che lo trovo caldo, va ghiacciato, vabbè. Ho bevuto, giusto per fumare una sigaretta, ma fa un cuffia le sigarette pure. E a tutti i dini tu. Tanto mi fa, amore di drone, amore di lampi. Quello sicuramente. Ci vuole buona volontà. Devi essere più forte tu dalla sigaretta. Va bene. Non problema, la sigaretta è una cosa seria, ragazzi, bisogna mollarla. Basta grappa, buonasera. Ciao Mario, buonasera. Ah, mia buona di Mario. Ciao, buonasera Luca. Beh Mario, ciao, avanti fra. Sì, ciao Mario, salutoni. Ben... ben entrato. Cos'è Rocca in visivario? Poi ecco, sono tutta a scarica. Quello è il problema del PTT, Mario. non ce la fa arrivare, fino a corsi, a volte, siccome uno schiacci non esce. Capito? Lui mi dà cambiare il PTT, perché lo faceva anche a me l'F16. L'ho cambiato, anzi, l'ho cambiato i contatti che c'ha dentro, e sta sempre andando. Quelli sopra c'hanno sempre quel problema lì, capito? Il PTT, PTT, PTT. Sì, sì, sì. Però tu, fra, io lo sai tu quando lo usi, no? Poi sai come la forza di usarlo, si fa quelle strisciate dentro, tu lo sai cosa ci va dopo, cosa bisogna mettere, poi fare le cose nuovo. Ma cosa bisogna mettere? Però qui sono quando te la smetti con le fini fini fine. No. E tu lo sai mai anche? Ho più diverso a fare lui? No, a me mi hanno detto che se tu apri la matita, c'è qualcosa nuovo, i passi quello lo rifai nuovo. La matita? Cosa ti sente? Il coso che c'è la matita, non lo so come si chiama, qualcosa che c'è nero dentro, i passi quello lo rifai nuovo. La grafite è di Zendi, e lei è un poco di bianco. Grafite? La grafite, la grafite, ciao, buonasera. Come la fighi questa grafite? La matita. Fra, le levi quelle lamelle che ci vanno sopra e le passi e diventa nuovo. Ma via! Poi io la prendo il numero, non lo so, no, ma è quello là che non si vuole dire cazzate. Se tu dici che funziona così, vuole funziona così. E poi mi attendi, buonasera! Ehi, buonasera! Aspetta, non ho detto come va a fanguala, devo dire la mia mamma. C'è Franco pure, Delta 1 e Mario. Buonasera a tutti, ben sentiti, va. Io sì, ciao Anthony, salutoni, indiano. Vediamo un po', Mario. Ma c'è la banda del microfono, non so più l'entrata, fatemi lo qua. Vabbè. Lì è impazzito Luca. E lì è impazzito. Sta uscendo basso. Non si è capito niente quello che ha detto Mario. Cappello positivo. La giornata è bella, il maestro sta mollando. Domani grande pesca. Sei un bastardo, io ho sempre detto che sei un bastardo, mentre fuori. Ma non sai perché voglio andare domani? Ma che c'è di sole, ma sta calmando, anche non che picchio. Ma basta anche la sua, lo manda te la prepare, sa che a me la nostra molla questo qua. Boh, sarà, le ragioni tu, ma io mi dubbi. Ma tranquillo, tu vedrai che domani questo non c'è. Sto uscendo, quando c'è un... Mario, lampa di tutto, riprendi la calista. Con il lumino. Ecco sì, va. Sempre i passendi, sì, sempre i passendi. Ah, Natalio, che la gamba. Infatti, io non lo voglio, sennò la gamba, lui. Natalio, che c'era già costruito un altro buco? Qua, oh Mario, l'unica cosa lì è... Ciao voi toro, non me la fotti nuda, e poi ti dicevo fiammante, nuovo l'uovo, però è a 12 piedi, mi sembra che non va bene. No, mi pare che colori 16 sono, 8-8 16. No, mi sembra che è 5-5 sono. Oh, adesso sono il cuglio se ne come dici tu, che c'è io ce l'ho qua, perché posso dire che sono 14 piedi invece. Ma non mi ti dica il microfono. Io ne metto 100 a stare, chi sono facciamo mai, che sono ci faccio sempre. Guarda, mi sembra che... Allora, vediamo un po'. Forse 14, forse, non lo ricordo. No, me lo ricordo, io ce l'ho a 12. Quante sono? Voglio guardare quante, meno. Piccardo, verso il mano il microfono di Mario, non solo che... Ma che dai. Un attimo che mi hanno chiamato. Ma tu eri fra, se non ce l'ho fischi. Sì, sto facendo una prova. Aspetta un attimo. Vai, vai. verità, ma secondo me mi sembra che da felice è impossibile. Ma buona di dire da Gabbo. Pare che era 14, non me lo ricordo. Beh, da 12 c'ho nuovo, fiammante. Mario. Ce la si riascolta tutto alla prossima. Nel rotto di uscire verso quell'ora, perché solo qui non trovo posto. Infatti ho preparato già la roba. Cazzo, cazzo. Ma se no qui già lo sai, lì come arriva, non ci metto tre cani addosso. Ed è un macello. Lavori intrecciato. Maria lui, si parita. Ma è stato un flusso di barra di Arezzi. Cappa cappa. non lisco. Vabbè, Luca, ok? Troppo. Va bene, Roger, no? Tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Preso? Gava. Direzione? Si può dire. Ma vicino a noi, vabbè, comunque vi saluto, che succede? deve fare delle commissioni. Ciao, questo pedà, buona passeggiata e ce la riascoltiamo alle bussole. Natalia, e tu dove lo stai? Uscendo? Da lì, il rione, lì, come si chiama? Non si chiama Lunghi, dai. A Montebianchino sei passato, là. Già a Carino. Ma so cosa è passato anch'io lì. Sì, dice che c'era un incidente, me l'ha detto mio fratello. Io non sono uscito stamattina, purtroppo. C'era un incidente, hai grosso studio, ha fatto capire che c'erano un sacco di urbani lì. Ok, riprendevano. Sì, grosso, una gru c'era, un camion con la gru, sì, non so perché si stava caricando la macchina, forse si è sbattuto qualcuno contro di lui. All'anno di dispari erano me. Sono quegli articolati che salgono attraverso il suolo. Uno o due si sbattono lì, quegli articolati. Quando hanno la casa in assente, camminano in piano e a dritta. Vieni lo dovevano lui si cammina in strada. Da niente, come si fa? Sì, se qualcuno già impara la versione. Intanto si trova andando in triciclo adesso quello. Vabbè, ciao, fidati che mi chiamano a fare. Ciao Manuel, ciao tu. Ciao Forza Palazzo. Ciao Manuel. Tutte le prossime. Natalino, e tu dove stai? Uscendo? Sono alla fine delle sigarette, devo ritornare subito qua, perché? Quello lì. Abitami. Mi vesto e vado giù a prendere le sigarette, mi tocca a chilometri da fare la fine delle sigarette, dimmi tu. Ma mi sanghi di un chili, a rischia. E c'è parlata, ora se non mi compare le lacce se non mai dici, no? È il barilio. C'è anche la tabacchina. Sì, c'è dappertutto la tabacchina, c'è anche lì alla discesa della grassa d'aletta. E qui hai uno via Castiglia anche, in angolo. Ehi, già lo so, non vado sempre lì a filare le sigarette, scendendo vado sempre lì. Sono talissimo Ardurone, tu Ardurone, a parte tu falla a me. Ma è finito di rompere le scatole, è finito, o vengo lì e ti taglio il pizzetto, bello bene, e parli con muro poi. Io c'è un breco, finocchio, avanti. Ecco. E avanti. Buonasera. Basta, chi è? Alfonso. Alfonso? Che è Alfonso? Questo deve essere Alfonso il Cordobè. Ah, ma tagli i capelli Alfonso. E non mi lo chiamo Alfonso. Questo è il barbiere, ca. Barbiere, sì, o barbista? Barbista. Ah, boh, me lo vado a pronunciare io, dai, non prendo il microfono. Sai che c'è? Stavo modificando una radio. Cosa, Fra? Stavo modificando una radio, cioè questa. Stavo modificando? Stavo facendo alcuni accorgimenti là. Ah, capo. Franco, tu mi devi dire una cosa a me, maledetto, che non me l'hai detta, e me la devi dire. Uno di questi giorni vengo e te l'avevo detto, cosa... Perché tu hai una cosa che io non ho. Che? No, non te ne dico quando. Oggi, va bene, d'accordo, vabbè, che continua a fare mille prove, ragazzi, prendetela, se no mi buca a pista un poco. Senti i facendi su Franco, senti i facendi, e boh, là, a un paese che non è mia, che se non è mia, me la viaggio in dubbio, che non ha questo, non vedo uscire che ha la con la terra. Ma io ormai non sono come te, io ho più pazienza, le cose devo far funzionare, perché se non funzionano, cioè non funzionano, finché non funzionano non smetto. Fra, tu rispondi un sì, no, e tu che non stai a premere 300? Cosa? A Mario, tu devi rispondere un sì, perché non ci butti le mie 300? Guarda, io con le mie 300 l'avrei voluto per doppio. Fra, l'avresti voluto vedere, io te lo farei anche vedere. La carcassa gancio che tiene la levetta del PTT, quella in plastica, che è parte integrata della carcassa. La cosa positiva, hai capito tutto. E siccome quando vai a mettere a schiacciare la portanza, avendo quello lì che si è rotto, cosa succede? Succede che preme o non preme, e cioè ti dà quei falsi contatti, là, perché a volte aggancia bene, a volte non aggancia bene, o non ti può uscire di radio, oppure esce male, un po' esce, un po' non esce. Sì, ho capito qual è il problema. Vabbè, già si può riparare comunque male. Non ti demoralizzare. No, sai cosa stavo pensando di fare qua? Smontarlo con una punta di trapano di quelle sottili, no? Della stessa misura. Allargare appena appena il foretto di giù dove c'è il pezzo rotto e mettergli una vitina in ferro che lo mantenga. Sì, Roger, Mario, lì ci vuole molta calma però, perché quello è un pezzo molto delicato e se sbagli fai besso. Ricappa, già lo so, però bisogna, cioè io penso che sia l'unico rimedio per mettere a posto quella carcassa lì. Sì, sì, sì, è quello un rimedio. Roger, va bene, riprendi Luca. Luca Ciaffaraggio, Natalino. Claro, vuoi un mixer, se non me ne faccio nulla. Un mixer? Quanti cavalieri? Allora, 1, 2, 3, 4. 4 canali dovrebbe essere. Però se il microfono le tutte in più. Ma ha soltanto gli slide oppure c'è anche i controlli alti, medi e bassi? Sì, anche quelli c'ha un cursore, due pomelli e un altro cursore, oltre i 4 che ci sono in mezzo. Sì, sì, conserva. Cassa. E qui c'ha anche dei tassini sotto il cursore, quello è per abilitare il canale del vetro, non lo so usare io, non me ne sbatte nulla. Però se lo vuoi vedere io ce l'ho qua. Sì, quello ma poi è il processore dell'ingresso che puoi pilotare sia un ingresso a bassa frequenza che un ingresso ad alta. Esatto. Poi ci sono due boccole, una per le cuffie e una per il microfono. E sono di quegli attacchi grandi di chi parla. E sono i cuffie, con le cuffie grandi. Va bene, d'accordo. Beh, signore, riprendo però che io devo urgentemente uscire. Ci sentiamo al più presto. Roger. E anche io devo uscire là. Vi saluto, che devo fare con la commissione lì. Già, ci sentiamo. Roger, riprendi Mario. Ciao, buona passeggiata, se stai uscendo a passeggiare, e buon fine serata. Te l'ascoltiamo tutte alle prossime. Nathalie, con te che ti risentiremo dopo quando rientro dalle sigarette, cambio basso. Oh, Luca, sì, riprendi tu. Ma tutti molti siti. Franco, California. Sì, Luca, me l'avevo chiamato io. Stavo chiamando Mario, se sono a fuga. Non lo so se c'è ancora. Sì, come hai? Cosa, Fra? Che ti stava chiamando, Mario, ti ha rilanciato, ma non c'è. Tu stai per dirmi qualcosa, Fra. Ho fatto, questa è la quel microfono che c'è tu, non verde. Siccome il mio è come il tuo, ma è grigio davanti, cioè il bordo grigio. Ho fatto nero, però di un altro microfono. Sempre di questo modello qua però. Poi vediamo un po' come ci sta, secondo me ci sta glielo piatto domani. Se mi sta prima io devo la pulirizzo. Ah, il microfono della Midland. Brava. Un caffè e vengo a tale cucciarezza. Ma cavami la vecchia vacca, lasciamene un po' su, lasciala lì. Lasciala lì, ho preso il sabuzzino io. Se vuoi andare a prendere un caffè, non c'è problema. Vabbè, se la vuoi te la porto, forse la lampo. strada che c'era per fare il piacere ai gronghi. Ti arrangi, bra, non so, facciamo anche la, insomma, l'anno scorso non arriva Bustino. La differenza è buona, sopra che si arrampi, secondo me è buona. La buona. Ma qual è quella che fa? Via. Quella va bene a fare il piacere ai gronghi. Passaggio un po' più lungo, mi sembra una signora. suo. E cappa cappa. Aspetta, Mario. Avanti. Quando aspetto, la lente è 4. Qua sempre seccato. Mi piace la modulazione. Cappa, io mi piace. E qua c'è la 600. Cappa cappa. E già vanno bene già. Mario, come sta a posto, vai? Ehi, tira, chi vuole entrare avanti. E devo essere anche la fronte con la cambio di giugno. E Franco è te che sta già nel filo, se no. E se bisogna. Occhio, sta già deludito, frammi, ti brucia la bocca. Non risponde, no. Impegnato e portato la segna. Dice sempre con le mani in mezzo al durrone. No, io faccio che siete con mira. Va bene, Marco, va bene. Fai tantissimi sì fra di noi, cosa? Va bene, e siamo da tutti, va bene. A voglia, per cui a noi non si interessa l'apparecchiatura di mani, non si interessa, le altre volte le chiste a noi. Ad esempio con questi 10 mesi di vacchio che hanno cominciato il tempo uomo, mi posso tornare a QSO, tra la Spagna, la Francia, la Norvegia, l'Olanda, il Brasile, il Portogallo e un bel paese mi coscio. Ebbene, ma se mi ha detto cosa puoi fare, a me dire che te lo mettessi a dire. Oh! Ormai sono felice sempre, ma la siamo andata in fatta lì, sì, di no che mi hanno ancora, anche voce può capitare, ma non mi interessa di capire. Per cui va bene così. Ebbene, carico, tutti tu l'hai esagiati, ho guasto tutto, hai avanti. E ancora vedi, la bufone di ormai, finiti so che c'è caloriferi. Di fatti si QSO e a Ciamba Cassolini da un luogo all'altro, finiti, a vanno viene più gana, o viene più gana, pure se possiamo essere giovani, troppani vi siamo attaccati lì si giocattoli, così che si ridinimo, va a farti compagnia, fa sentire altri amico, fa quattro chiacchierate, qualche cosa, ma avere a casella postale come capiami, sono finiti. Infatti. Carico! Ma faccio fare lui o no? Dio, a fagiarlo con la gubbia. Ah, me sembra che sta già per accattare la cosa. Ecco, non so se mi sono lavorato anche altro unito, buono. Ma strada del Tomino, no? La gente del Tomino. La gente del Tomino, questo manzano fa un po' careggio. E da voi è scomparso, boh. Strano, E deve essere a tenere freddo. Poi tutta in coma. Magari, ogni altro io sono guidato in chiesa per sempre in giro. Domenica passata, no? La gente è sopravvenuta, che sta chiesa più poco. Allora proviamo a domani a Manzano, se ne intendo. Allora c'è salutato, se torni a tanto. Ebbene, che sta a entrare. A portarci il burgato di stagio, E lì farò già entra. Oppure entrare domani a mangiare. Già se mi nocca. A virga. Già se mi nocca. E picchi negativi, e picchi negativi che farà qui. O ma meno che a me quando i cacchi mi dai sempre un altro se segnali, due tacchetti e buh. No, vabbè, ragazzi, sono picchi positivi, Mario, si andano avanti oppure rimane in torre in derito l'acqua. Dimmi se sono picchi negativi o picchi positivi. No, come ti puoi rientrare da nuovo anch'io, sono picchi positivi, mi arrivi tutto a fondo scala. Capito, quando muore l'udito si andata a risolvere questo posto posto largo, si andata appena più di metà. A me mette le secchi negativi. Da 9 se si farà 7. E invece dai chili andata anche le signore da dire. Confermi Mario, pure un riuscio a pitta, Beh, mi sono pensato di una cosa. quindi si rifà due o tre tacchetti. Hai ragione allora, eh. Allora hai ragione chi dà i picchi negativi, poi strano che sta parecchio, Allora, da 9 a 7 si rifara. Ma aspetta, perché aumentato i minuti. E la radio si dice buona, strano, eh? Buona, se ce la dobbiamo buona, e con il piano di scemo, vuol dire che inoltre è molto migliore. No, fa intendere che va anche lato, ma succede se ne andrà un tre tacchetti indietro, procede, fa intendere no, procede sì. No, sto il picchio negativo, da, che a per cosa è il picchio negativo, mi sono avvisato, Carico! Ma a te sei l'usuio preciso? Allora, ecco, vedo un po' se sono picchi negativi e picchi positivi, ma forse un passaggio, un bruscetto però, ecco. Com'è? Picchi positivi o picchi negativi? Ma che mai non vedete i picchi negativi eppure i picchi positivi, interrogativo? Ma a me non sono i picchi negativi e poi vedete i positivi, cosa vuol dire? Picchi positivi, visto dati negativi. Allora, certamente, la le posso Luca ci ha visto tra l'altro. Sicuramente sono tra l'LC e praticamente in trasmissione si porta picchi negativi, Giovanni. Si portati io si brucia, la buca si brucia, ma si vecchia, ok, va bene. E cosa sei convinti? Bisogna uscire e poi quando sei in compagnia fate gli altri buchi perché andate e addirittura poi andate a uscire fa pigliare la pizza, va bene, mi sono tutti a sette malanni, evidentemente la fate le buona, uscire. Andiamo a uscire, facciamo la pizza e poi ci facciamo la ballata, che ci sono belle donne lì. Ah, certo, e perché ne sono tutti di niente? Allora va bene, va tutto bene fra allora, vai pure tranquillo, vedo che sì, e poi quando siete in crepa è meglio ancora, d'accordo. Mario, avanziamone pure a Ussi. No, io invece no, che la mi studiata, gli ha un po' poco di mesi, io ora, la compagnia mi ha messa confezionata, la sera mi piglia un cartoncino che finisce 3 o 4, mi pare. Amici, fare la chiacchieratina, lei segue una 50, non deve stare invidiosa, è nuda, tranquilla e pacifica e passate un paio d'ore, e tanto è già sempre in casa, voi anche dei giovani, non si che hanno la passeggiata, è sempre bella farla, avanti o mai. Non ha fatto niente, che si sa, noi e ora è pure la croce del 5, noi lo stiamo, noi stiamo parecchi voci pure, capito? Però magari ancora per freddo al 5, che per cui avrai rimane in casa. E poi non è che mi piace tanto la pista a me, e ogni tanto la mangio, ma la notte è pesante un bel per me, per cui sì, ultimamente grande. Pare che la chiesa passata o di più, se la conosciata, se ti dico che sono stato tanto ultimale, ma ti sciocamo, tutto. A un certo punto un raggio faccia più e non c'è un raggio più, anzi, puoi immaginare, non la ritiro, capito? Ora che mi lascio, lui c'è logico, e un buco che fammi pure pesanti, ma io intanto a me mi navigano i 2, 4, 5 bici, mi navigano, non è che ne mangio una la metà, ho tanto passaggiarla. Ah no, e si la mangiano, si posano tranquilli, alla televisione e si la mangiano. Noi si tocca tanto, capito? Però ripeto, ogni tanto la mangiavo, questa volta mi ha fatto male, o forse anche mi era troppo cosa, io la mangiavo prima senza capperi e senza acciughe, capito? Mentre ultimamente si è filata tutta completa, via le capperi e acciughe, evidentemente a me non andava e mi ha fatto male, tutta un samba di ciò come era. Ma sai, comprare di più, ogni tanto così, no? Non so che da lupo sia davanti a noi da vendere, si è condizionato, sono poco condito, se da voi se ti piace il più la condita ti racconti tu a modo tuo. Se no come ti la vendere gli si può mangiare. Ehi, ma per me è pesanti, da dire pesanti, non ti do un tanto, capito? Magari se non mi aveva fatto niente l'aveva mangiata, però qualche volta gli ho mangiato e non mi ha fatto niente. Allora, questa volta non mi ha fatto cosa, forse fa che era troppo voglia, tipo rosso. Vabbè, a te non ti piace fra completa un tutto o come si? Ah, io mi mangiavo una batterista pure una mangiata. Ma io non l'ho mai mangiata, come te? Mi mangiava, ci sono polpetti praticamente, gabinetti, mezzo, serpiente, un po' di questa roba così. Non lo sapevo io, poi mangiare, dai altri mi mangio pizza che non c'è un balcone. A meno che non dire già, è Lorellana, basta, capito, la più di niente, allora si comanda, la politica poi fu. E per cui non mi sappia, ma però un periodo anni fa, un bel anni fa, andavo di certo a questa torre a mangiarla così. Però da poco siamo intraccati, mi siamo andati via, passo con la mezz'anni, chi ha che voce, chi la mangia, ma tanti voi. Allora, ultimamente ripeto, mi ha fatto male e non... E non la non già mangia più. Ora, Mario, dimmi, a me la margherita non mi piace, mi piace la pastiglia. Non ho compreso la battuta però, fra. L'avevo compresa, via. Allora si chiama Lisa, fa il suo nome, sta in casa sua. Allora, ci dà la margherita, mi chiama la vita, con la nuova testa. Li portate in ripiglia. Sì, non se ne è la mattina cantata in ripiglia, va, Giovanni. Li portate in ripiglia a voi, che poi un bocca in faccia. Sì, mi ci ha dato giù pizza. Ma è troppo picchiato. Una volta dove era andata male, che l'ho fatta ora, dal cuscino, in mezzo. E sapete, per fare la bene. E ok. Che c'è la Caterina, buonasera. Buonasera. Buonasera, ragazzi. Buonasera. La Capricciosa, mi piace, non c'è. Sì, a me mi piace Capricciosa, che sono Capricciosa. Prima andavo un bel spesso, così che le sale le conoscevo a memoria, in tutta la Sardegna, e me ne invitavo il macco sabato e il macco la domenica. Ah, ma purtroppo non ci accettare cosa fai, casa lì, tutti tu, clicca a tocco e andendi. Io ci vado molto spesso con quelle ditte così fra. Anzi, va magari oltre, ma io no. L'ultimo l'ho fatto a parte in settembre, sono andato a Padre Pio, sono passato a Napoli. Avevo girato tutta la cosa mauritaria lì e ci stava veramente bene. Però magna, come ti mangiamo c'è la roba sana, non viene in altro luogo, c'è poco a fare. Se devi fare dei celucci, i sardini e roba che ti lasciano. Invece che davo, dopo questa di maccheroni e pasta, attinati, devo di un piatto. E un mattino, Carifu, ho guardato dove sono, sono le 7 minuti, a derivarmi di Asciolina, in cui vi lascio. Buona moria, ciao io Maria, ci sentiamo domani, anche a California, a tutti gli amici che sono in ascolto, augurando una buona notte a tutti. Riprendi il branco, aspetto il giro di salute e chiudo. E buonanotte, ciao, ci sentiamo. Ciao a tutti alle bruci. Ok, capito fra. e l'hanno già fatto, dite così, ma la capo di schia si mangia sempre per i nocchi, i sognaroni si mangia per. Allora, secondo me che non visci i nocchi, oh, mi ha rifiutato andare, però non ho, oh, dove sono voluto andare. Caso uno si sente bene, non si può visto da casa, ma se me la sento bene, andato. Allora, che tu si qua ogni domenica, però non no. E la moto, cioè, moto spada deve stare per sì. Niente, la moto è roba, ce la mette. Ogni mangiata a baccarizzare, che se... Ma si mangia sempre per i nocchi, qualsiasi luogo anda in montagna, hai di mangiare sempre per i chili, là, e poi roba genuina, capito? Chiamato un giro che Maria, a proposito, ma di quelle che ci ha organizzate non ne fanno più. Di quelle? Di quelle che ci ha organizzate, prima le facevamo sempre, adesso non ti ho sentito che le stavo facendo. Ho visto sempre, vai, ci sono sempre. Ci sono anche... c'è un giornale che danno ogni tanto e ci sono, ma e se dovessi interessarti io mi informo, faccio i giornalini, vedo un po' dove sono e quando sono queste già bisogno già avrà, ci sono sempre, per cui non ci sono problemi, ci devo andare, capito? Allora vedo un po' che secondo me se ce n'è qualcuno di quella zona perché no? Possiamo sempre farla, capito? Non vedo problema. Vabbè, adesso mi informo e vediamo un po'. In caso mai da ti farò sapere qualche cosa in seguito, capito? Perché ce ne sono tre domeniche ci sono, capito? E così che vediamo un po' dove si può andare. Ti farò sapere in seguito, capito? Cava d'acqua, Giovanni, già va bene. Dai, io lo sentivo. Ma non è che sono uscito a lungo, dico. No, sono uscito a nessun posto perché sono mal di gola, boh, non so, una cosa, da rimani, mi sento la gola, anche inghiottendo la saliva mi fa male, inghiottendo mi fa male la boh. E oggi sono tanto andare in casa, gli butto un pazzo adesso un lungo, proprio a chi mi sentia male. Parlo giù, parlo più a computare. Vado di latino della retta, hai chiamato non esce, e non sono uscito. Devo fare pure in campagna, ma come si fa? Ho visto, no, e non sono andato. Adesso vediamo un po'. E cosa mi fare, fra, ragazzi, un macello, ragazzi, una grande perfetto, si sia odiando, poi andare lungo. A che si fa in campagna, magari, perfetto, sì, fa qualche cosa, ma... E dopo, magari, tintani, tu sai che andate a chi sei tu, però poi gli fa caso bene. E se tu sta attento non tu sei da voi di tutti e se vuoi già andare un allora per fisco se rimane in casa e ciao buonanotte. E si va ferma, e si va ferma, infatti è così. Ma neanche io volevo andare su una parte, c'è un freddo fuori allucinante, addirittura la temperatura dice che stanno ancora calando. E io mi sono lasciato bene che c'è una puntata di neve, un pioppo non segnato, speriamo che non nevichi. In marzo non è tanto per la roba, quando Simone si fa le mie. Ma in questo periodo quasi sempre tutto il tempo così, o grandina, o ne, o freddo, a più l'opposto, in modo mi lampa tutto il fiore nella lampa fa carezzare. Ma questo è già di importa. Dai si venga. Cambio che posso fare in campagna per fare un uomo in testa mia. Cosa vuoi fare? Ok. Bene, bene. E io ho sentito se no, stasera. Ma c'è stata una battuta, però non sono entrato, non so se hai compreso che ero io. Non ho fatto caso, Giovanni, a dire la verità. Non ci ho fatto caso. E se la gente una pazzia, tu hai detto, se te una prova si tu se la accorgi. Ah, cavola. E lui si dice, anche se lui si mi. Momento da quella si è subito dato, sono stato una battuta. Ma Luca penso che mi ha già riconosciuto però. Capo. Sì. Cava di positivo, andare bene me da. Ok. Così è. Allora se ti ingreppa oggi, oggi no? Papa Giovanni, oggi ingreppa. Per ingresso di casa di per dai. Almeno se fa la chiacchierata più o meno. E tieni lo davanti, va benissimo. Sì, è stato per ammazzare il tempo Giovanni, guarda quello qua. Ammazza, ammazza il tempo. Infatti. Se no guai, guai, non puoi stare sempre da resto casa, no, cazzo. Oh, a me che ha spesso la televisione mi fa delle mariluzzi, allora sto Giuseppe. Beh, attendo Marchino, se come sto per nessuno, il suo dopo mi sto rappresato per la televisione, me ne sono rappresato se c'è fuori, forse così, sempre nel torrente, senti il movimento, capito? Io si attacca la noia, raga. Sì, sì, sempre così, chi ha detto mi trova? Ma così anche malanno, vai, si vede che avrà, gatto quasi tempo buono, andi, ma che sto freddo così lo copino, poi e chi li faccia a mare, peggio ancora, più freddo ancora, così che mi accorgo malanno, la sanità, gatto quasi tempo buono, andi, fai questa cosa, non si farà che quasi freddo domani. Quello non ci vado, non ci vado perché domani mattina c'è un servizio, ma ne butto io quel tendone. Che tu quel terrazzo lo puoi usare per tante cose, li fai due sportelli scorrevoli, guarda, e sei tranquillo sia per l'inverno sia per l'estate, tutto, capito? Ti fai mettere una zanzariera in una parte, quando vuoi aprire uno ti butti fuori il pannello della zanzariera, quello che ha aperto in estate. Cando un tacchinissimo e apre la tabella, si rubassa la tabaccia, vanno in tantissimo, eccetera, eccetera. E poi si è riservato sia che il ferro che il chio, come ti ho fatto io. Due sportelloni, almeno, no, almeno non entrare, hai capito? E siamo tranquilli. Il chio l'apri e lo frecco entra ugualmente. Per cui, secondo me, fai una impresa e la fai, ma sempre, e non hai pericolo che tu ti metti nella notte e fai il vento, fai il rumore, il pericolo della te l'hai fascia, ma chi purtroppo lo vento fa di chissà altro, ma la facciata non la bocca non l'avrà, per cui anche se paghi di più è una cosa più ben fatta e dura un'eternità. Boh. Infatti Giovanni, infatti farò proprio così, e farò mettere una bella vetrata lì e sulla là. Allora, ma è l'unica soluzione, quella di la tenda va bene in estate, va bene, però pure quando fa vento, vuoi chiù, io ti tocca a me, ma poi se andrai in fascia, o prima che in fascia, invece la metà non te la tocca, tutto, anche tutto, e dormi tranquillo la notte, mentre invece quella per strada sei tranquillo, capito? E infatti, perché praticamente se io metto con Barcellona il vento non l'ho fatto, perché qua il vento lo sai quanto ti rapporta, ui ui ui. Ma dire a me, io quando l'avevo fatta per il terrazzino, cioè io no, l'avevo fatta la tenda, certo, magari mi pare oltre 600 o 700 euro, ma non me la metto una cosa del genere allora. Però la notte, che aspetta, se ti notti mi ne fa sempre salvo grippo, ha sultato, ma chi... Guarda tutti i limoni, non può disporre niente, con lui ribadete che cosa che fila di fare a girare sotto e sopra. In questa maniera, per la vetrata, la donna è cavata, di fatto la vetrata, ieri si può pure in qualsiasi cosa, se da per voi, buco qua. Figurati, è infatti. Sentiamo un po' tutto, perché nel senso che mia è così, buttare giù, una volta che butto giù quel calone, metto una vetrata, ne butto giù quella parete della cucina e mi faccio tutto un cucinino lì, capito? Che male. faccia, se con la facciata io vuoi fare la cucina così, già lo credi. E invece sta bene sì. E c'hai le attaccate tutte pulite, tranquille, precise. Quella cucciata la fai fuori. Quando cucini apri un tatto sulla vetrata ci andranno anche uno o due finestrini alla parte superiore, per cui apri un finestrino e sei tranquillo, capito? Va che è meglio fra. Vedi di più, però un po' di sacrificio, però almeno c'è una cosa fatta per sempre. Mentre che l'azienda la fai oggi e se ne passuccate lo prima o poi te la fascia. Certo, se si fa la roba di osso sono cacchi due, capito? Infatti Giovanni, infatti praticamente parlo così. Adesso più in là, vediamo un po' questa vetrata, quando viene a piazzarla, devo contrattare ancora, adesso lunedì, lunedì sera parlo, lo faccio venire a prendere le misure, tutto quanto, e vediamo un po' di fare questo lavoro qua, tutto lì. Adesso poi lunedì mattina devo andare a ritirare il contratto dalla casa, che è già pronto, devo andare solamente a ritirarlo. E quindi anche quello è sistemato e tutto quanto. Ok. Sono cose che bisogna fare e basta, capito? Sono cose che bisogna fare e basta, fra, per cui quando ce la fanno cose bisogna fare e basta. Quelle sono cose che intanto a casa si fa, capito? Quando va a casa è tranquillo, Casa, sennò se uno si capiteggia a pagare l'affitto, lui sa tanto di mio. Esatto, gli assombarati l'affitto da là, 400 euro, 500 euro, capito? E allora, io lo credo, ma io sei come te casa tua, tu. Tu sei casa tua, tu sei quello che lo vuole, io vado a pagare l'affitto, tu sei tranquillo, per cui non è un cosa nuova, per cui va bene quello che stai pagando, per cui sei tranquillo, a voi si te la ricatti. E meglio ancora, capito? Grazie, tu c'è troppo vecchi, per cui è abbastanza sana questa casa, ha tutta parte attrattiva, che è molto da 70, 80, pare che tu sei tu, capito? Oh, ma lo sai che faccio un travagliato lì, che rende cattive cemento, prende dei fondamenti, però è... Però non metto che a pararti la ira. Però faccio travagliati qui da pistine minori, un calzone, la segni. Tu figurati qua per fare le tracce, se non è una casa, già hai visto un impianto che ho fatto. Praticamente i libri, tutto un moto piccolo, ma con un moto piccolo riesce a passare la chite. E a chi non gioco? E allora per me, capito, non finiva i periodi di Monte, da fino di Monte Carichi, ma lì poco e niente, capito? Acconto, un bel voce acconto, capito? Poi le faceva riscillare, ma allora lì si travagliava. Ah vai, perché il signore, non vuole fare niente, pure malissimo. No, ma sono abbastanza asciutti questi casi, capito? E per cui è casi sani, capito? E per cui io stai bene lì, è troppo bene, sei tranquillo e pacifico, non bisogna problemi fra. Come casa ti è asciutta, ma c'è un freddo, Giovanni, allucinante, che c'è un freddo da morire, cioè in questo periodo c'è da morire qua dentro. Adesso ho due stufe accese, una qua e una camera da pranzo, e poi freddo, perché c'è apre le finestre e poi l'aria calda che ha accumulato all'interno della muratura c'è da fredda subito. Ma il balcone non lo devo aprire, devo aprire mangiando, va a prendere un po' d'aria, ma da voi bisogna attaccarli, poi cazzo taglia un balcone a bici, no? Come ti fai? Carina c'è il balcone a bici, E provino che ti vuole le mani in capo da Roberto Corrente, poi mi anche entrare per tutto, anche se ho tutte porte e finestre, mentre tu porte e finestre non hai manco una, bisogna il balcone e lo prendo le manco. Ma poi magari fai un impianto, senti, del riscaldamento autonomo, e da voi chiama tutto. Purtroppo sono case grandi, per cui il casale è minorita, così che lì ci vuole la super per forza accesa, perché sennò non vorrei dov'è. Ma con la Brumazzano, una sera bisogna staccarli e da voi staccate e accendere il cuffio, per là che le cose ciappa, ecco. Giovanni, che fate? È uscito. No, una casa è molto grande, solo che più grande la casa più prendo sé, chiaramente. Piccola la casa me lo prendo a sé. Ma è così, no, capito? Andare, frate, andare. Andare. Sì, non ci potremmo dire, siamo fortunati, abbiamo visto la casa, sennò è fuori a noi. Siamo del decapiteggia, non me ne dai, ti ammazza. A macchina siamo tranquilli, come ne dai, non abbiamo. Freddo, freddo, freddo, ogni lungo ora. E noi siamo sotto il terrazzo, nel piglio. In inverno, quindi è un barone freddo. Da sopra, ci sono altro alleggiamento. Che pensiero non ce l'abbiamo. E i ricchi, un gatto di caccia che si piazza nel cemento, un gatto su questo è catramato, si fa l'alfino, vedo un gatto da crema, ma tu invece sei sotto un altro piano, per cui freddo, caldo non hai e sei più riservato, mentre io ricco comare, io farò i ricchi, non ti devi lamentare, fra tu c'è di me di lei. Sì, non ti devi dire, no, sono più bene di lei, io. Ciò che mi ha trattato qua, sei più bene di casa tua, Giovanni. Vieni in nera, vedimi un attimo. Ma perché non ho lasciato dietro questo canale? Eh? Non se ne frega niente se non avete le doppie finestre. Cosa va a te? Ho interrogato, non ho compreso. Ah! Qua c'è? Sono rientrata. Ciao a te comunque, buonasera. Buonasera Gio Maria, dai come va? Tutto bene? Freddo c'è? C'è freddo, ancora siamo in pieno inferno, per cui fino al 21 marzo si fa sentire, dai. Già passa ovviamente, magari dopo arriva il caldo e vogliamo il freddo. Non siamo mai contenti, per carità. Gruppo del Gerveno, marzo, boh, a quanto pare mi sa che ancora freddo non deve fare. Proviamo a aspettare ancora, boh, vediamo. Però basta adesso con questo inverno, dai. Lo comandiamo noi, dove? Comanda Salvatori. Ha detto che siamo troppo mali e per cui fasi a modo suo ha detto Salvatori. Non lo so, comanda quello che c'è tu. Però dai, ne siamo stanchi, una bella giornata adesso ci vogliono. Ne farà. Ti stancheremo anche. Io quando faccio venire lì davanti all'altra, a primavera, mi si fa in campagna e ci occupi, cazzo. E c'è più appetito in campagna. Quello che è vero. Stiamo dicendo da te io allora, con Franco a dormire, perché io le fate con l'odio. Ha visto il cacchio quando ci siamo noi. Devo farà, non vi so bene. Ma che mangiamo anche di un pari. Ma che? Tu non hai la veranda mia, io ne fate ci passo. No, che notte seduta in quella sedia che c'è in veranda. Ne fate la notte, perché non il caldo non mi fa dormire. Ma noi di solito, però, certe volte scendiamo, no? Siccome qua c'è molto caldo, allora certe volte scendiamo la sera a cenare. E poi magari su tardi ce ne saliamo, capito? Solito facciamo così. E molte volte capito di coricare giù, capito? Per cui anche tutto e per cui possiamo stare anche bene. Poi l'estate tu sei benissimo. E lo mettesi in campeggio, la stessa cosa. Non manca niente. Ti manca solo la salute e un po' quell'appetito ti manca. Quello già è vero. Non dormite perché in campagna voi, domani d'estate. E allora di giorno, certe volte facciamo anche 10-15 giorni, capito? E io non credo già. E come? Fino che non si può stare. Per cui allora ce ne sentiamo giù e siamo più bene, capito? Ma la campagna c'è fresco? E quando c'è caldo anche in campagna, mister. Però si sta sempre più bene di qua, Qua c'è troppo caldo, non si può rimanere, mentre là almeno un po' d'aria passa da una parte all'altra. Per cui me ne vado su, c'è un gradone, c'ho due saie, una per me e una per lì, c'è l'ombra, un po' d'aria passa e dopo pranzo ce lo facciamo sotto lì al fresco, che è una meraviglia. No, hai la fase più per tu. Io ti lascio, secondo me ti tratto compagnia di Franco, là. Bravo, ciao, ci sentiamo, Teri, ciao. Sì, Giovanni, capito, così è. Ti casate così? Sì, sì. E questo è vero, malato che è maledetto, ma poi prima, magari prima, non so, non mi fa dire nessun effetto. Con la poltroni, lo usava come c'è appena di letto, infatti ci sono poco poco, un bel caso subito. E chiaro, i primi casi aveva. E facciamo ogni cosa lì, mi attacca. Allora certe volte lo cassare riservato, ma certe volte più riservato sai, peggio è. C'è la ragione. Avatevi tu. Non si occupava la campagna. E i luoghi, non dia niente, era già sano, un ciao ora mi metto una un mal di gola. Giovanni, purtroppo.